Bolzano per l'archivio storico del comune di Bolzano e durante questo lavoro di riordinamento archivistico sono emerse anche delle carte prodotte dall'ufficio tecnico del comune che riguardavano i ricoveri della protezione antiaerea. Quindi a partire da queste carte che in qualche modo erano state oggetto di un lavoro, adesso insomma possiamo presentare alcuni risultati. Qua ci saranno sicuramente le persone presenti, qua presenti tra noi che hanno vissuto i momenti dei bombardamenti, che hanno vissuto direttamente la situazione, le condizioni di ricovero all'interno dei rifugi, quindi per quello senz'altro non posso parlare. Io cercherò di fare un discorso più generale. Allora, vediamo in questa mappa, prima di entrare nei rifugi, una situazione dell'impianto delle sirene d'allarme relativo alla città di Bolzano nel 1935. Questo serve più che altro per dimostrare come già in periodo, diciamo, lontano, comunque non troppo vicino allo scoppio del 39 e all'entrata in guerra dell'Italia del 40, si respirasse già un clima di preallarme, o comunque la città non vivesse una situazione così lontana dalle prospettive belliche. E quindi il comune di Bolzano predisponeva sirene d'allarme, impianti di sirene d'allarme su tutto il territorio. Vedete, i puntini rossi esprimono proprio la dislocazione delle sirene e la rete, il fascio di rete, il collegamento, diciamo, la diffusione del suono che poteva essersi. E sempre a proposito di questo sistema di sirene, questo quadro più ampio della protezione antiaerea, notiamo come nel 1940 il comune di Bolzano ampliasse la rete di protezione delle sirene d'allarme. Venivano sistemati nuovi pali e tra le varie carte del comune è emersa anche questa richiesta di nulla osta. Quindi si dice del 1940, del 9 ottobre, un cittadino che abitava in via Sarentino. Per esigenze di protezione antiaerea è il comune di Bolzano che parla, l'ufficio tecnico ed in seguito a superiori disposizioni è necessario collocare nel fondo di vostra proprietà in via Sarentino un palo di sostegno di una linea per sirene d'allarme. Il lavoro verrà eseguito avendo cura di arrecare il minor disturbo possibile e senza produrre danni di sorta. Si prega pertanto di voler concedere il vostro nulla osta. Quindi nel 1940 la situazione è diventata più tesa, nell'ottobre l'Italia è entrata in guerra e anche l'impianto di sirene d'allarme viene esteso. Ma parallelamente alle opere dei ricoveri antiaerei, ai ricoveri veri e propri, vengono anche instaurate delle altre misure di sicurezza. In particolare, questo riguarda il Milano 1944 ed è una vasca per riserve idriche. A questo punto il conflitto è in corso, i bombardamenti, come sapete, sono anche questi in evoluzione, in svolgimento, e per fornire ai vigili del fuoco l'acqua necessaria allo spegnimento degli incendi vengono approntate delle vasche idriche. Questa è Agries, ma ve ne sono altre comunque in tutta la città, nelle piazze maggiori, quindi tra Viale Duso, nell'angolo tra Viale Druso e Via San Quirino, in Piazza Walter, in Via Brennero, in Via Carducci, in Piazza Sernesi e in Piazza della Madonna. Ecco, questo a livello introduttivo per quel che riguarda il sistema di protezione antiaerea. Più precisamente, queste vasche prevedevano uno scavo naturalmente di sbancamento, di fondazione, una muratura in calcestruzzo, un'ulteriore muratura per i pozzetti, un sottofondo in pietrame, stuccatura, platea in calcestruzzo, eccetera, tubi, tubazioni. E vennero conclusi, scusate, nel maggio del 45, giusto per darvi un quadro. Dunque, i bombardamenti. Bolzano ha subito 13 bombardamenti tra il 1943 e il 1945, dal 2 settembre fino al 28 febbraio, quindi prima che venisse fermato l'armistizio fino a, diciamo, poco prima della fine della guerra, fino al, ma, alla al febbraio. I rifugi quindi furono necessari alla popolazione. Ricordiamo che l'80% degli edifici fu danneggiato durante la guerra e che non è stato registrato, non è stato possibile registrare il numero esatto delle vittime. Comunque, senz'altro, Bolzano è stata una delle città più gravemente colpite dai bombardamenti. Questo per via della linea di comunicazione del Brennero che interessava gli spostamenti delle truppe e gli approvvigionamenti sul fronte militare nel centro Italia. Allora, i rifugi si possono distinguere per diverse tipologie. Da una parte abbiamo rifugi diciamo, rispetto alla gestione, quindi rifugi pubblici, collettivi o casalinghi. Per forma, per struttura dei rifugi, che adesso poi vedrete benissimo nelle foto, più ampiamente nelle foto. Comunque abbiamo rifugi in galleria, rifugi all'interno, nei sottosuoli, nei sotterranei degli edifici, rifugi all'interno di trincee e tubolari. Naturalmente anche per capienza questi rifugi si differenziavano, quindi da poche centinaia di, meno di centinaia di persone fino a parecchie migliaia di persone, per esempio per il rifugio sul Virgolo, nella galleria del Virgolo. E cambiava anche il grado di sicurezza dei rifugi, quindi dai semplici rifugi antisoffio, antischeggia per le schegge dei bombardamenti, delle bombe, oppure anticrollo e alla prova. Gli elementi costitutivi di questi rifugi naturalmente devono essere la resistenza della struttura, la reazione della struttura e gli ingressi della struttura. Come accessori si parla dell'illuminazione, servizi igienici, panche, cassette medicinali e piccozze e pale per l'uscita. Allora, nel 1943 il Ministero dell'Interno prescriveva, dava delle indicazioni di massima per l'approntamento dei rifugi, quindi si diceva che i rifugi pubblici sono quelli destinati esclusivamente ad accogliere le persone sorprese dall'allarme mentre sono in giro, che non sono dotate di un proprio rifugio casalingo, i ricoveri collettivi sono quelli che si trovano negli enti, all'interno degli enti o negli uffici, eccetera. Il grado di sicurezza è dato dai ricoveri resistenti ai colpi di bomba in pieno, quindi poi prenderanno il nome di ricoveri alla prova. Ricoveri resistenti al colpo in pieno delle bombe di 50 kg sganciate a un'altezza non elevata, e questi diventeranno poi prendono il nome di rifugio anticrollo, oppure ricoveri antischegge e antisoffio. Per darvi un'idea di quello che era lo standard del rifugio alla prova, quindi il rifugio alla massima protezione, il Ministero prescrive che i ricoveri debbano avere masse coprenti laterali dello spessore tra 2 metri e mezzo e 5 metri se di roccia, quindi uno spessore della muratura che arriva fino tra i 2 metri e mezzo minimo per la roccia, 3 metri se il cemento è armato, 4 metri di spessore appunto di massa delle coprenti laterali, se si parla di conglomerato cementizio semplice, e via fino ai 15 metri se si tratta di coperture, masse coprenti in terra leggera e sciolta. Allora capite bene che rifugi alla prova devono essere veramente pochi, quelli più resistenti. Per farvi un confronto, il rifugio anticrollo semplice necessitava di una massa coprente di un metro di cemento armato, ecco. Tuttavia, il Ministero naturalmente prevedeva, prescriveva, invitava alla costruzione di rifugi alla prova e invitava, diciamo, evitava come ultima soluzione si ricorre alle trincee e ai ricoveri tubolari. Le trincee e i ricoveri tubolari avevano il ricovero tubolare una larghezza di 1,5 m e uno spessore delle murature tra i 20 e i 30 cm. Le trincee e i ricoveri tubolari si trovavano negli spazi aperti, solitamente nelle piazze, e richiedevano, necessitavano di una distanza dagli edifici, non meno, cioè, la normativa dice non meno della metà delle altezze di questi, cioè diciamo la metà dovevano stare al centro di questa piazza e non superare l'altezza degli edifici. Per Poi si prescrivevano anche paraschegge, impianti di areazione, smaltimento, si diceva lo smaltimento delle acque deve avvenire con mezzi naturali, mai con mezzi meccanici, la fornitura d'acqua all'interno del rifugio deve essere come minimo di 2, non meno di 2 litri per ogni occupante, questi rifugi devono essere comodi, semplici e ben distribuiti, eccetera. Allora, queste erano le indicazioni appunto, del Ministero nel 1943. Di fatto la situazione, naturalmente, se ci fossero stati tutti questi rifugi alla prova, ecco, sarebbe andata diversamente. Diciamo che il comune di Bolzano prescriveva ai propri cittadini un ricovero anticrollo per ogni abitazione. Vi leggo da una lettera facsimile che si è trovata nella documentazione. Dalle superiori autorità è stato disposto che ogni casa debba avere un ricovero antiaereo anticrollo, capace di contenere tutti gli inquilini delle case in base 2 persone per metro quadrato di ricovero. Poiché nella vostra casa nulla è stato fatto al riguardo, vi invitiamo a provvedere al più presto, eccetera. Quindi questo è un po' il mezzo di difesa base per la protezione antiaerea, un ricovero anticrollo all'interno di ogni casa. Questo che cosa significa? Di fatto, anche il comune di Bolzano nelle proprie case comunali doveva adeguarsi alla norma e di fatto appunto si traduce in un rafforzamento delle proprie cantine, di un rinforzamento della struttura. Come avevamo detto prima, è l'elemento base, la struttura portante, la reazione e le vie di uscita. Quindi, questo vi è tratto da una relazione tecnica, dalla liquidazione delle fatture fatte per la costruzione dei ricoveri anticrollo delle case comunali in via Claudio Augusto, in via Riva di Sarco, via Bottai, viale Trento, eccetera, nel 1940, 1940, si riassume brevemente quello che è stato il lavoro fatto all'interno della casa per approntare il ricovero. Allora si dice, ove esisteva già un volto o un solaio in cemento armato che dessero buona garanzia di sicurezza, si è provveduto soltanto all'imbiancatura del locale, alla collocazione di panche e schermi e alla installazione di una lampada elettrica. Ove si è ritenuto necessario, si è invece provveduto alla costruzione di armatura anticrollo in legno. Tutti i ricoveri sono stati dotati di un piccone e di un badile. Nel 1940 l'adeguamento alla normativa, eccetera, prevede appunto diciamo così, un consolidamento delle strutture. La prefettura, che vigila a sua volta, che controlla al di sopra del comune, diciamo, prende atto della situazione non, che la situazione non è conforme, non è adatta, non sarà poi sufficiente per lo scoppio delle bombe. E denuncia proprio, dice, non si può limitarsi nella costruzione dei ricoveri antiaerei, cito, all'imbiancatura delle pareti e dei soffitti, a un grossolano pareggiamento del piano di calpestio, alla fornitura di un congruo numero di sedili, dell'apprestamento di qualche latrina a secco, alla protezione delle aperture esterne con puri e parascheggia. Questo perché naturalmente se cioè non è la cantina che in sé è un ricovero, è la solidità della stessa che poteva proteggere la popolazione, nient'altro. E cosa avveniva? Che per esempio un problema di areazione, se il ricovero non era sufficientemente areato, si rischiava il soffocamento. Se i muri che dovevano proteggere, i muri a protezione delle uscite, non erano predisposti con sacchi di sabbia o con muratura di tufo, si dice un minimo di 30-60 cm, si rischiava una difesa, un piccolo muro in difesa che costituiva doppio rischio per la popolazione all'interno del rifugio, perché l'eventuale scoppio di una bomba mandava in frantumi il muro, che quindi creava ulteriori schegge che andavano a nuocere alla popolazione, alle persone ricoverate all'interno degli spazi. Questo per quanto riguarda i ricoveri anticrollo, quindi i ricoveri, diciamo, all'interno degli edifici, nei sottosuoli degli edifici. Nei ricoveri in galleria, che dovevano essere quelli più sicuri per la popolazione, adesso vediamo un esempio della Galleria Alguncio. Questo, sono andato avanti, scusate. Ecco, questa è una galleria Alguncino, come saprete, a Gries si trovano. Ma scusate. Tutti i monti attorno a Gries erano stati utilizzati per l'approntamento di gallerie e ricovero. In queste gallerie si erano poi anche traslocati gli uffici dirigenti tedeschi, di occupazione tedesca, ed era considerato uno dei luoghi più sicuri, poteva essere considerato uno delle modalità più sicure per la difesa dalle bombe. Questa è una delle gallerie del Guncina, in cui venivano alloggiate 1300 persone. Si tratta di un progetto questo è appunto un disegno di progetto che risale agli inizi del 1944, e i lavori furono proseguiti poi per tutto il 1944, conclusi nella fine dell'anno. Come vedete, ci sono due uscite, una sulla destra e una sulla sinistra. La popolazione veniva ospitata all'interno del tunnel, e ugualmente, ecco, venivano anche mantenute le prese d'aria. C'era un locale apposito per la reazione, in cui si dice una cabina di ventilazione pavimentata, questo lo leggo dai disegni di progetto, in abete. Erano riposti dei sedili fissi lungo le pareti della galleria. Venivano tenuti all'interno gli attrezzi prescritti. Questi erano appunto lo standard dei ricoveri, cioè nel caso in cui non si le uscite fossero ostruite. Quindi in questo caso, rispetto alla capacità della galleria, si parla di 6 badili, 6 piccone, 2 leve e di 2 mazze. Naturalmente anche poi era necessaria la cassetta dei medicinali, l'impianto di illuminazione, l'armadietto farmaceutico. Ecco, questo doveva essere un po' i rifugi più sicuri. Una testimonianza che adesso vi leggerò brevemente del capogalleria della galleria numero 2 del Guncina, il capo del Guncina, denuncia situazioni potenzialmente pericolose. Da una parte lo scavo di questa galleria nel 1944, il continuo brillamento delle mine rendeva pericolante la galleria vicina. Quindi, il caporicovero appunto dice: il brillamento delle mine che viene effettuato ogni giorno per la costruzione della seconda galleria ricovero ha fatto cadere nell'interno del ricovero due pietre di portata non indifferenti, le quali, nel caso che la galleria fosse stata occupata dal pubblico, avrebbero provocato la morte di molte persone. Pertanto, occorrerebbe che almeno 3 volte la settimana il soffitto della galleria fosse martellato da competenti in materia, in modo da poter individuare i punti franosi. La galleria ha bisogno di una costante cura e di attenzioni. Un ulteriore denuncia, un ulteriore rischio che poteva trovarsi all'interno di queste gallerie: l'impianto di illuminazione. In gallerie ampie come queste che vediamo in avanti, che ospitavano più di 1000 persone, era obbligatorio un impianto sostitutivo. In questo caso si parla di lampade in acetilene. Allora, che cosa denuncia il caporicovero? Dice: le lampade ad acetilene, delle quali mi avete fornito e che dovrebbero sostituire la luce in mancanza di corrente elettrica, non sono raccomandabili entro una galleria dove vi si rifugiano fino a 4.000 persone. Questa si tratta dell'altra galleria. Poiché, dato che sono saldate a stagno, non hanno consistenza ed il gas che vi si forma nell'interno potrebbe con facilità farle esplodere in qualche parte che risultasse più debole. Quindi, l'uso delle lampadine di emergenza potrebbe creare delle esplosioni. Pertanto, per adoperare tali lampade, in caso di necessità, attendo un vostro ordine scritto. Il capogalleria assolutamente non vuole servirsene. In questo caso ci sono anche problemi di detriti lasciati agli sbocchi delle gallerie, cioè lo scavo della galleria, la seconda galleria, lascia detriti franosi agli ingressi degli altri ricoveri. E che quindi è potenzialmente pericoloso per la popolazione. E si insistono all'interno di gallerie come queste anche problemi di ordine, nel senso, occorrerebbe che in caso d'allarme il mio lavoro fosse facilitato da almeno due gendarmi o militi della SOD, i quali agli ingressi proibissero al pubblico di ostruirli. Malgrado tutta la mia buona volontà, non posso da solo. E malgrado che sia coadiuvato da due persone che facevano parte delle squadre di assistenza e vigilanza, disciplinare l'enorme numero di persone che affluisce al ricovero. E naturalmente, nel momento in cui suonavano gli allarmi, la popolazione si riversava in questi che erano i rifugi più sicuri, normalmente considerati più sicuri, ed si creava, ecco, un problema di gestione. Ancora un altro problema che poteva presentarsi all'interno di queste gallerie è quello della reazione, come abbiamo detto. La reazione delle gallerie è assolutamente insufficiente per l'enorme quantità di persone che vi si rifugia. Occorre pertanto provvedere ed al più presto ad una sufficiente reazione, sia a mezzo di forte aspiratore o aprendo all'interno delle gallerie apposite prese d'aria. Quindi in questo caso, ecco, esistevano sia mezzi che creavano ventilazione, che movimentavano l'aria, oppure semplicemente il capogalleria chiede dell'apertura di nuovi sbocchi per il ricambio della circolazione. Ecco, io chiuderei qui, spero di avervi dato una piccola così, idea sui rifugi. Naturalmente le carte si trovano, alcune di queste carte, alcune fonti per la documentazione si trovano in archivio storico del comune. Chi fosse interessato naturalmente può visitarle. Purtroppo, stando alle carte, anche le carte sono utili, non si può ricostruire il tracciato esatto di tutti i ricoveri. Molto a fondo non è possibile, non è possibile tracciare il quadro, ecco. Passo la parola a Mariano Guzzo, grazie. Ringrazio la direttrice della Biblioteca Provinciale, ringrazio Giulia. Si tratta soltanto di mettere a posto qual è la mia chiavetta. Qui posso chiudere, Giulia? Dunque, io fino là non ci vedo purtroppo. Dunque, c'è qualcuno che riesce a vedere le risorse del computer? Sì, non riesco a vedere perché ci sono le persone davanti. Sì, quella lì. Ok, dove c'è scritto, aspetta un attimo, c'è scritto progetti. No, c'è un PowerPoint da qualche parte. Possibile? Ragazzi, non ci vedono. No, c'è un PowerPoint, ci deve essere. Ecco, questo qui, sì. Ah. Porca miseria. Non saprei come fare, allora. Cerco di fare lo stesso in un'altra maniera perché è stato confezionato con OpenOffice e ovviamente qui non riesce a leggere. C'è una cartella, se qualcuno mi aiuta a leggere, Recovery Antiaerei, questo? Ok. Allora, io lo leggo qui dal mio computer. Una cosa molto semplice, mi dispiace che non possiate vederla. Comunque, il problema lo espongo in maniera generale e riferito però alla situazione attuale. Allora, le tipologie diverse dei ricoveri antiaerei, ci sono ricoveri in roccia, ricoveri tubolari, come diceva già Giulia, cioè sono ricoveri in trincea, trincerone, cantini ed edifici pubblici e privati. Allora, in roccia abbiamo una situazione particolare e vorrei lasciare... Allora, ci deve essere da qualche parte rifugio antiaereo in roccia. Qual è? Questo? Poi c'è... Può darsi che sia questo, non lo so, speriamo. È veramente sì, lasciamo questa immagine qui, anche se c'erano delle altre immagini. Allora, la situazione è questa fondamentalmente. Dalle carte... delle delibere comunali del Comune di Bolzano, noi abbiamo una serie di delibere che riguardano dei finanziamenti direttamente dal Ministero dell'Interno per gli anni 45-46, mentre per l'anno 44 dall'Alpen Forland. E noi vediamo che ci sono una serie di ricoveri antiaerei che sono sotto le gallerie del Guncina, precisamente... abbiamo la galleria numero 1 e 2 a Gries, la 2 attualmente è dietro le caserme di Vittorio Veneto, la 3 corrisponde alla galleria che sta all'inizio delle passeggiate del Guncina, la 4 è la galleria che è l'unica, l'unico ricovero antiaereo che attualmente è adibito ad uso civile ed è usato dalla clinica Bonvicini. La 5 che voi vedete è la galleria in via Fago, dietro praticamente l'ex ospedale, l'ex hotel Austria, attualmente distrutto e ricostruito con gli edifici della provincia di, mi pare, riabilitazione, qualcosa del genere. Solamente questo ricovero antiaereo ha una grandezza di circa 5.000 metri quadri, E dopo mostrerò alcune caratteristiche che forse potrebbero interessare anche forse gli storici, non lo so. La galleria numero 6 è sotto il Monte Tondo, si tratta della galleria di Sant'Osvaldo. Diciamo che la particolarità di questa galleria, che è molto ben conservata, che però andrà a sparire perché verrà inglobata in proprietà private senza che nessuno ne sappia niente. Dove ci sono le indicazioni del virgolo, io purtroppo da qui non ci vedo, ma vedo solamente delle cazze rosse, ci sono delle gallerie. Dunque, il tracciato del virgolo era un tracciato stradale inizialmente e poi è stato utilizzato come galleria antiaerea. Ci sono stati dei morti all'ingresso, nei bombardamenti all'ingresso delle gallerie. Dopodiché questa galleria usata come rifugio antiaereo ha avuto delle costruzioni di barriere proprio davanti in maniera da far evitare gli spostamenti d'aria causati dalle bombe. Attualmente a nord del virgolo, dove c'è quel piccolo cerchietto, vicino a quello grande a destra, c'è una galleria che è molto interessante, dopo andremo a vederla fotograficamente, è una discarica. Devo dire che quasi tutte queste gallerie sono usate a discariche. Secondo i termini dell'ufficio tecnico del comune, fino a qualche decennio fa venivano contate circa 10.000 metri quadri di vuoti, di superficie. Solamente il rifugio di Via Fago, quello più grande, quello col cerchio più grande in fotografia, ha 5.000 metri quadri. E la maggior parte, come ho detto, è utilizzato di scarica, solo uno è usato uso civile, quello dietro il Bonvicini, e quello della giardineria comunale, che è quello appunto all'inizio delle passeggiate. Allora la richiesta, chiaramente la proposta, che se ne fa Bolzano di tutto questo vuoto quando ha una fame di spazi incredibili che potrebbero essere utilizzati per diciamo, musei, teatri, percorsi didattici, momenti di incontro culturale, mostre fotografiche, proiezioni, dibattiti, tutto quello che si vuole, cinema, eccetera. Vado a scorrere un attimo le mie fotografie, vediamo se dimentico qualcosa. Ovviamente i momenti dove si possono trovare documentazioni rispetto a questi ricoveri sono l'archivio storico del Comune di Bolzano, l'ufficio patrimonio della provincia di Via Crispi, il demanio dello Stato, l'ufficio tecnico del Comune in Via Lancia, il catasto del libro fondiario tavolare e gli archivi militari. Ovviamente, perché dico anche scorro questa serie? Perché chiaramente le documentazioni non sempre coincidono. Ci sono delle leggi, adesso vado a cercarle un attimo solo, delle leggi, per esempio il decreto legislativo, voglio dire, il problema è questo, la domanda, di chi sono di proprietà questi vuoti che potrebbero essere usufruiti benissimo dalla città di Bolzano? Ci sono delle leggi, dei decreti, dei DPR, c'è quello del 1948, e ci sono delle leggi del 1973, delle norme di attuazione dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato. E ci sono delle integrazioni anche nel 1998. Allora, in queste leggi si danno indicazione di tutti i beni dello Stato che devono passare alla provincia, che sono già passati o che dovranno passare. Però una cosa divertente è in questa legge del 1948, io cerco di leggerla anche se è piccolissima. Allora, dice questo, all'articolo 1, le opere permanenti di protezione antiaerea già costruite dallo Stato direttamente o per mezzo di enti locali sono dichiarate di pubblica utilità. Ecco, se la pubblica utilità è lasciare spazi vuoti alle discariche, questo potete vederlo voi. Poi ancora, all'articolo 5, tutte le opere permanenti di protezione antiaerea nel territorio della Repubblica sono di pertinenza dei demani di Stato, al cui nome debbono essere intestate in catasto. Esse devono essere riportate nei registri di consistenza. Io credo che ci siano delle discrepanze tra quello che c'è attualmente all'ufficio del registro e all'ufficio tavolare rispetto alla documentazione all'archivio storico e rispetto a quello che c'è all'ufficio tecnico del comune. Ci sono ancora ovviamente delle domande che abbiamo fatto già in passato ai politici, che farsene di tutte queste cose. Ci sono c'è una dichiarazione del sindaco Spagnoli nel dicembre del 2005 in cui dice che avrebbe utilizzato questi, almeno lui li chiama bunker, penso che si riferisse a questi spazi vuoti perché di bunker in città non ce ne sono, e, a parte nella periferia, nelle zone limitrofe, e dichiarava appunto che sarebbero stati utilizzati per scopi sociali. Altra dichiarazione sull'Alto Adige di poco tempo fa, salveremo rifugio antiaereo per firma di Davide Pasquali, per firma di Davide Pasquali, dove ti sto dimenticando. Sì, esattamente, la dichiarazione era di Sandro Repetto, assessore alla cultura, in cui avrebbe dato avrebbe fatto di tutto per salvare un punto in piazza Matteotti dimenticato e che vi farò vedere poi. Si tratta di una cantina rifugio ricovero antiaereo che è degna di nota per le cose che mantiene e per anche il suo stato di conservazione. Ecco, questo per quel che riguarda un po' i rifugi in roccia. C'è ancora qualche considerazione da fare per il virgolo, dopo va bene, le scorreremo le immagini, però A destra abbiamo parlato prima di quel piccolo cerchio a nord della galleria, subito a destra del grande cerchio nella foto. È un bellissimo tunnel scavato con un altro tunnel sopra elevato che potrebbe benissimo, attualmente a discarica, essere utilizzato come centro di qualsiasi genere di ritrovo sociale. A sud invece, sulla destra dell'ingresso della Galleria del Virgolo, abbiamo quella serie di gallerie che sono state utilizzate durante la Seconda Guerra Mondiale per la costruzione di cuscinetti a sfera per macchine meccaniche belliche, dalla fabbrica IMI, credo fosse un gruppo Fiat, industria metalmeccanica, forse non so, qualcosa del genere, italiana. Alla base di questi stanzoni si vedono ancora i pavimenti in cemento armato che dovevano sostenere macchinari abbastanza pesanti, eccetera. Nelle gallerie invece di Oltrisarco, attualmente sono occupate da privati, e quelle di San Giacomo invece sono invisitabili per praticamente l'ostruzione dei privati che fanno all'ingresso. Cosa è successo? Veniamo un attimo ai ricoveri. Questo era un tipo di ricovero antiaereo, un altro tipo era quello dei ricoveri tubolari. C'è una caratteristica nelle delibere del comune di Bolzano che si trovano all'archivio storico del comune. Si parla di un acquisto fatto dal comune complessivo di metri 770 lineari di questi tubi in acciaio. Allora ne erano stati in realtà costruiti poco più di 900 metri ed erano messi stranamente solamente nel rione cosiddetto Dux, cioè il rione Don Bosco di adesso. Praticamente erano dei tubi a forma ogivale che erano posti sotto circa dai 20 ai 50 centimetri sottoterra, e in questi tubi di forma ogivale dovevano prendere posto le persone per difendersi dai bombardamenti. Il risultato è che, per esempio, nei tubolari di via Corsica le persone disertavano questi ricoveri e preferivano correre o alle gallerie del Guncina o alla polveriera di Castel Firmiano. Di questi ricoveri ne sono stati costruiti in Piazza Pontina, che è l'attuale Piazza Don Bosco, in via Corsica, che è l'attuale via Genova, in via Bari, in via Torino, in via Milano, in via Udine, Ponte Druso e via Parma. C'è da dire, restano questi ricordi? Sì, certo, restano, però purtroppo è stato veramente difficile recuperarne le immagini, perché ho dovuto cercare presso ditte che molti anni fa hanno lavorato per ricostruire o ristrutturare, e non sempre con facilità sono riuscito ad ottenere le foto che poi vi farò vedere. Ci sono ancora, ecco, le cantine e gli edifici pubblici privati. Ci sono delle leggi che regolano la costruzione dei ricoveri antiaerei in questi edifici. Dal 1936 gli edifici sono tutti obbligati ad avere dei locali di protezione nei piani interrati. Negli edifici precedenti ci sono delle leggi che regolano anche qui le condizioni. Cioè ci sono, ad esempio, e dopo vi mostrerò le foto, se voi andate in via Museo ci sono dei negozi che nei seminterrati, dove è possibile entrare, ovviamente dove hanno ristrutturato, dove è possibile l'accesso al pubblico, ci sono alcuni negozi dove è facilmente visibile ancora la porta di scavo che doveva mettere in comunicazione una cantina all'altra per permettere una via di fuga. Io adesso, aiutatemi voi, cerco di arrivare con la vista fino laggiù in fondo, chiuderei questa immagine. Dunque, dove c'è recovery, no, dove c'è la cartella no, questa non è una cartella. Qual è il titolo? Un attimo solo, no. Un attimo solo che è un casino. Ci deve essere scritto proprio recovery antiaerei. Dove? Vabbè, ma sono già in recovery antiaerei, per cui non c'è. Allora, ok, sì, siamo già nell'elenco. Va bene, questa, vabbè, andiamo avanti così per cartelle e speriamo che si possa vedere tranquillamente. Allora, questo velocemente, no, io vorrei poterle scorrere. Come si fa? Per poter... però non riesco a vedere. Mi dite voi... Ah, qui sopra. Ah, qui così, ho capito. Ah, sì. Ok, questa è l'inizio delle passeggiate del Guncina, ovviamente monumenti sempre distrutti da atti vandalismi in questi ultimi periodi, anche qui dalla firma di Davide Pasquali sull'Alto Adige ci sono delle precise denunce, questo è uno degli ingressi, questo è un altro. E possiamo scorrerle anche velocemente, questa è una delle famose porte in ferro, con oblò, eccetera.